sono le ore 9:14 di venerdì 14 gennaio 2005 e mi trovo in Via della Storta, come sempre a quest'ora, anzi nella prosecuzione di Via della Storta che si chiama Via di Casal Selce, e mi accingo ad imboccare la Via Aurelia. E questa è la prima registrazione che viene effettuata con la nuova attrezzatura, che è in buona sostanza un lettore di file MP3 che però registra anche, svolge le funzioni di voice recorder. Quindi spero che questo non metta a repentaglio la mia sicurezza, come invece accadeva con l'attrezzatura precedente. E proseguendo in questa carrellata di nuove radio comunitarie scoperte negli ultimi tempi, come anche segnalato sul sito di Pendo Deliri, una scoperta recente è costituita da WREK, che è una radio di Atlanta. Anche in questo caso si tratta di una radio universitaria, cioè gestita dagli studenti, in particolare della facoltà di ingegneria dell'Università di Atlanta, e forse proprio per questo si tratta di una radio tecnologicamente molto avanzata, addirittura con le playlist aggiornate in tempo reale, il che permette di scaricare tutto l'archivio in MP3 sapendo esattamente chi suonerà nella mezz'ora scaricata, e questo già di per sé credo rappresenti un'importante sfida alle cosiddette Cassandre del Digital Right Management, che per anni hanno detto che la radio su internet sarebbe stato un fallimento, e posso anche essere d'accordo per quanto riguarda le radio in streaming. Certo che se un gruppo di studenti volenterosi riesce a mettere in piedi qualcosa di molto valido dal punto di vista radiofonico e a permettere di scaricare file in alta qualità, anche file musicali evidentemente, a quel punto siamo veramente di fronte a un vero e proprio portale di audio on demand, e in questo caso non me la sento di sancire il fallimento dell'esperimento, anzi, nel mio caso sono dei fruitori più assidui di questa emittente, proprio perché trasmettono 3 ore di musica jazz al giorno, ma lo stesso si potrebbe dire per gli amanti della musica classica. Comunque in generale, al di là del fatto che i DJ sono veramente molto improvvisati, perché si tratta appunto in gran parte di quelli che in Italia in modo un po' spietato chiameremo i nerd, quindi con delle voci un po' traballanti, con una pronuncia tra l'altro del sud abbastanza difficile da capire, però alla fine quello che hanno realizzato è secondo me qualcosa di molto importante, tant'è che addirittura le televisioni nazionali, la NBC, hanno dedicato servizio ad alcune trasmissioni che vanno avanti da oltre 40 anni. Ora, non credo che 40 anni fa vi fossero gli archivi scaricabili in MP3, però in qualche modo questo testimonia la lunghezza di questa esperienza. E stupisce che in Italia non vi sia nulla del genere, non vi siano community radio gestite dalle università, anche perché l'impianto normativo della legge Gasparri, per esempio, permette la concessione di licenze comunitarie con tutta una serie di agevolazioni economiche. La verità è che ormai l'etere è completamente intasato, soprattutto nelle grandi città, dove ci sono i grandi bacini e dove ci sono anche le università più affollate, e quindi in qualche modo questo impedisce di ripetere le stesse esperienze anche da noi. Ed è veramente un peccato, perché appunto negli Stati Uniti e in Canada, come abbiamo visto, queste radio raggiungono livelli di qualità che le fanno entrare direttamente in competizione con le radio commerciali, superandole in molti casi. È il caso per esempio di un'altra radio che cito nel sito, la KPFA di Berkeley, dell'Università di Berkeley, che è a tutti gli effetti una radio con ascolto di tipo commerciale, nel senso che ha un bacino d'utenza che farebbe gola a moltissimi inserzionisti, ma naturalmente non va in onda pubblicità, quantomeno non va in onda pubblicità a fini sociali, su questa radio di ottimo livello, anche in questo caso interamente scaricabile da internet, i link sono su Pendo Deliri, sul sito. E molto spesso quello che faccio è scaricare dai siti di questa emittente californiana una trasmissione che va in onda la mattina, quindi in Italia viene pubblicata sul sito internet intorno alle 6:30 del pomeriggio, una trasmissione che si chiama The Morning Show, che è un grosso contenitore informativo, ma con grandissimi spazi di approfondimento. Ci sono spesso interviste a professori universitari, c'è anche una porzione dedicata agli interventi del pubblico, che interviene da casa, un po' come nella nostra radio anch'io. Queste sono esperienze, a mio parere, molto molto interessanti, oltre a costituire un valido esercizio per l'ascolto della lingua inglese, che pur sempre rappresenta uno strumento di lavoro.